tu non va e porta via tutti i pensieri che vivono in me, cullati dal vento e da questa malinconia. La nebbia poi scende ancora tra i capelli ed i pensieri, così porta la voce tua per vivere così. Il ricordo di un'estasi perduta, mille baci rubati e sospirati da lassù, la luna guardava di vergogna d'essersi amati. L'autunno porta il tuo sapore, lo sto assaggiando dentro di me, comincia a prendere forma quella solita malinconia. La nebbia bianca cade a volte, busca tutto, momenti e sogni, solo il sole potrà schiarirli per rivivere così. Quei momenti intensi e appassionati, i nostri sguardi, giardini di segreti, mai dimenticato. Inesorabile il tempo che scorre lontano. La la la la la la la la la la la la la la. Guardava divertita due amanti senza vergogna d'essersi amati. Venerdì romantico, un venerdì con Valentina Matarrozzi e 103.1. Wow! Beh, devo dire che questo brano riesce a enfatizzare bene il tuo timbro vocale, ma grazie, anche proprio la tua attitudine al jazz, e mi piace molto anche che hai mantenuto la lingua italiana, perché sentiamo spesso artiste che insomma si ripropongono con brani inglesi, però insomma diamo anche all'indie italiano spazio. Guarda, io ho imparato questa cosa lavorando proprio all'estero. Tantissime persone venivano lì e mi dicevano: tu sei fortunata. E io: perché? È perché sei italiana, e anche già solo quando parli è come se cantassi. Sì, che bello. Ma infatti guarda, molti allora dicono questa cosa, siamo fortunati a livello, e quella cosa lì mi ha fatto aprire veramente, ho detto: ma allora forse potrei scrivere dei testi in italiano. Però sai, è molto complicato scrivere in italiano, molto più che in inglese. Poi accompagnandoti con una base jazz che comunque ha una musicalità che non sempre riesce ad inserirsi bene con la lingua italiana. Dipende, insomma, è un prenderci. Io mi diverto, ovviamente non ci sto tantissimo perché non sono una persona che non mi sento un cantautore, anche se scrivo sia il testo che la musica di alcuni brani che canto. Per dire, questa Nebbia l'ha suonata il mitico Teo Ciavarella, perché è suonata da me, è una cosa mostruosa. Come ricordavamo prima, diciamo che la parte sì, legata all'accompagno io canto solo dal vivo, c'è il pianoforte solo a casa. Però ecco, è divertente. E poi ecco, no, stavo dicendo, scusa, sono anche un po' un po' d'Alzheimer. Così. Faccio dei voli che non so neanche io dove devo planare. In realtà non mi definisco cantautore, perché il cantautore ha assolutamente la voglia di dirti le sue cose, quello che pensa, e quindi scrive. Io no, ti io piace scrivo più poco. Interpretare. A me, io mi sento più interprete, sinceramente. Interpretare poi, anche le tue emozioni. Poi anche le mie canzoni, le mie emozioni, per carità. Però io interpretare per me è la cosa più bella del mondo. E in questo caso devo dire che ti è riuscito veramente bene interpretare Billie Holiday. Grazie. Un tributo veramente ben riuscito. E ricordo che da oggi, venerdì 20 ottobre, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, ma anche in distribuzione fisica. Sì, infatti, sì, fisica. Ti ringrazio Valentina che mi ha portato una copia, dopo la sfoggerò, ve la farò vedere a tutti quanti in modo da così sentirmi importante anch'io. E ricordiamo quindi che questo album nasce e si sviluppa soprattutto al seguito del progetto teatrale che ti ha visto protagonista sul palco. Sì, che è a sua volta un progetto teatrale nato da un amore per un artista nato in un altro progetto teatrale sempre su di lei. È una scatola cinese. Fra un po' la grada di finanza mi metterà in galera perché quindi è un'evoluzione infinita che in realtà però porta poi a questo progetto che ti vede comunque sempre da solista, ma sappiamo che non sei sempre stata una solista, o comunque non è l'unica tua partecipazione, diciamo così. Mm-hmm. Sì, vuoi parlare della Dottor Dixie allora? Sì, vabbè, la Dottor Dixie sono ormai 4 anni che insomma collaboriamo insieme. Io mi sento comunque una freelance, per carità, però ormai nella Dottor Dixie siamo come una grande famiglia, siamo tutti, ci vogliamo bene. È ormai una grande famiglia. Sì, sì, è una grande famiglia. E quindi possiamo dire. Anzi, che... li saluto, ragazzi. Ragazzi. Tenete duro, che stasera abbiamo le prove. Esatto. E tra l'altro, per quanto riguarda invece l'album che presentiamo oggi, ci sono dei vari brani che mi dicevi avete reinterpretato, rendendoli leggermente più lenti. Sì, sono stati un po' tutti riarrangiati, non abbiamo cercato di trovare le stesse sonorità di Billie Holiday, ma in realtà abbiamo cercato di trovare le emozioni. Quindi abbiamo tolto tutto ciò che era sovrastruttura, infatti c'è solo chitarra, sax, poi c'è un featuring con una tromba che... Tra l'altro in quel featuring c'è solo tromba, anzi, flicorno e voce, quindi ne manco più neanche le altre. Siamo arrivati all'essenza. E quindi sono stati un po' tutti riarrangiati in modo molto naturale, perché l'abbiamo lavorato in realtà quasi come fosse una jam session, non siamo stati lì troppo a tavolino a guardare ma questo lo facciamo così colà. Abbiamo cercato di tenere un mood molto similare sia dal primo brano che all'ultimo, cioè un percorso da godersi in un'unica traccia, quasi. Quasi sì, sì, esatto, bravissima. Grande, ce l'ho fatta. Non sono riuscita a compiere una frase di senso compiuto. Allora io direi di lasciar parlare la musica. E quindi partiamo proprio col primo brano. Vuoi presentarlo tu? Il primo brano è Stormy Weather, Valentina Matarozzi alla voce, Francesco Cavaliere alla chitarra, Igor Palmieri al sax tenore. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bad, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary old time. The time so weary. Blues walking met me. If he stays away, old rocking chairs will get me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I have is gone. Stormy weather says my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Qui parte la standing ovation per Valentina Matarrozzi, che è qui con noi e ci fa godere della sua vocalità e della sua reinterpretazione dei brani di Billie Holiday, che non sono stati selezionati a caso, attenzione. No, non sono stati selezionati. C'è una caso. Scelta accurata, sì. E sono 11 brani in I'm Billie, e mi dicevi appunto che è stata una scelta sì. specifica. Sì. Sì, perché allora intanto ci sono i quattro brani che lei ha scritto. Allora, Billie Blues e Fine and Mellow, lei ha scritto sia la musica che le parole. Poi perché appunto ricordiamo che Billie è la regina anche delle cover, tra virgolette, insomma, sì, ha reinterpretato tantissimi brani. Sì, beh, come tutte le grandi cantanti jazz, esatto. Però lei, a differenza di altre, ha scritto anche, non tantissimo, però ha scritto. E un'altra che ha scritto è Don't Explain, che è un capolavoro di musiche e di parole, e God Bless a Child, altro capolavoro di musica e di parole. Quindi sì, diciamo che quando si parla di Billie Holiday diventano tutti dei capolavori. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltarli, sono diventati famosissimi, e poi giustamente nella sua interpretazione traspare anche tutta la sofferenza vissuta nella vita, quindi dicevamo prima, un'infanzia difficile, ma anche il suo approccio vero che aveva con il pubblico. Cioè, riusciva, lei non a comunicare, non aveva paura, non metteva veli davanti, lei si, tra virgolette, si denudava di tutto ciò che poteva essere sovrastruttura e usciva la sua essenza. Questo è di pochi, secondo me. Il vero artista riesce a mettersi in connessione con gli altri, farli partecipi di quello che sentono. Sì. E poi sempre nell'album troviamo Strange Fruit, che è stata la canzone che l'ha portata al successo, alla fama. Anche se inizialmente è un brano difficile. È un brano molto, il tema è difficile, ma non solo all'inizio. Cioè, è stato poi il brano che l'ha consacrata, ma nello stesso tempo l'ha additata come prima persona che andava contro il razzismo, prima ancora di Martin Luther King. Sì, era addirittura vietato l'interpretazione di questo brano in molti posti. Sì, quindi... e poi dopo è stata perseguitata a vita, perché vabbè, si sa, lei aveva delle strane frequentazioni con la droga, con l'alcol, purtroppo le ha avute, però... Ce ne sono stati tantissimi altri di artisti in quel periodo che hanno avuto gli stessi problemi, ma è stata l'unica ad essere stata vessata dalla polizia e dai servizi segreti. E questo perché? Perché era la regina di Strange Fruit, la prima donna, la prima persona che aveva alzato la testa e aveva detto no al razzismo. E quindi questo è stato, ecco, Strange Fruit la canto insieme a un flicorno pazzesco di Fulvio Chiara nell'album, e poi insieme a questa c'è anche Gloomy Sunday, che è la canzone che è stata dopo Strange Fruit la più richiesta dal pubblico, anche quella. Allora, vogliamo far sentire una di queste, scegli tra Billy Blues e Sophisticated Lady. È un po' un giro, sì, non è facile. Sophisticated Lady. Oh, perfetto. Allora è aggiudicata? Oh yes. Aggiudicata. They say into your early life romance came, and there's your heart of yours burn the flame, a flame that flickered one day and died away. With disillusion deep in your eyes, you love that fool's love, soon grow wise. The years have changed you somehow, I see you now. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago, and when nobody is nigh, you cry. So sophisticated lady. Adesso ce l'ho fatta a dirlo. Sei bravissima, Elisa. No, ma qui la vera artista che abbiamo sei tu, Valentina, con questa interpretazione di Billy. Stavamo appunto indagando l'album I'm Billy di Valentina Matarrozzi e, essendo 11 brani, ce ne sono alcuni scritti proprio da Billy ed altri come questo che invece sono stati reinterpretati, che tu hai scelto perché per te, diciamolo, è l'interpretazione più bella, è quella di Billy. Quindi quando tu senti un brano come questo, associ io associo direttamente la voce di Billy, sì. E questo, anche Body and Soul, come Stormy Weather che abbiamo ascoltato prima, io associo Billy, non associo altre. È lei, è la regina, è la sua, la Lady Day. Allora Valentina, noi siamo purtroppo già in chiusura, è volata. Ma è volato! Ma quando fai da te, dopo fai anche per me, dopo vola il tempo. Ma non vedi? Ti ho fatto neanche il caffè, non dai. Caffè. Adesso usciamo per berci il caffettino, però prima, cosa importantissima, diamo un po' di contatti. Ok, allora vabbè, io ho il sito valentinamatarazzi.it. Che è fondamentale, anche perché ho visto, è fatto benissimo, complimenti. Grazie. Non è da tutti avere un sito fatto così bene, quindi ci tengo a dirtelo davvero. E immagino anche una pagina Facebook. Ho la pagina, ho il profilo e anche la pagina, quindi chi volesse seguirmi, per favore clicchi mi piace sulla mia pagina. Esatto, se poi se lo volete fare anche sulla pagina di Chi fa da sé fa per te, cioè, assolutamente, voglio dire, anche sì, perché voglio dire, format nuovo, abbiamo bisogno di carica, anzi a maggior ragione per chi volesse proporsi, perché anche lui si sente colui che fa da sé e vuole parlarci della sua esperienza e dei suoi progetti, può anche scriverci direttamente sulla pagina e sarò ben lieta di rispondere il prima possibile. Ti farò pubblicità. Grande Valentina. Oh, yes. E ultima domanda di rito, so che hai progetti futuri nel cassetto, non so se si possono intanto dire, però io te li chiedo lo stesso. Allora sì, allora il progetto futuro ne ho tanti, forse mi sposerò, no, sto scherzando. Ma guarda, sto scrivendo, poi non so che cosa mi porterà il cuore, le mani, la voce, però sto scrivendo. Poi adesso intanto facciamo la promozione di questo intanto album. Dici, intanto qui e ora facciamo un po' la concreto, questo fisico e anche digitale. Esatto. E I'm Billy, Valentina Matarrozzi, un'artista poliedrica. Grazie. Veramente un timbro vocale unico, continua così. Noi ovviamente ci vediamo venerdì prossimo, sempre dalle 10:30. Alle 11:30 con Chi fa da sé fa per te. Grazie Valentina. Grazie a te Elisa. Noi ci sentiamo un brano di Saturnino, un bassista scusate, che io insomma ho notato negli ultimi anni essere un po' così messo da parte, poverino, ma invece in realtà bisogna ricordarsi, è bravissimo assolutamente, visto che abbiamo fatto una puntata sul che ricorda il blues, ci sentiamo Mo Better Blues e vai, buona giornata. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Mm-hmm.